sotto sopra. «Statemi vicini, per piacere», disse Mary Poppins scendendo dall'autobus e aprendo l'ombrello perché pioveva a dirotto. Jane e Michael scesero dopo di lei. «Se ti sto vicino, l'acqua mi sgocciola dal tuo ombrello sul collo», si lamentò Michael. «Non te la prendere con me, allora, se ti perdi e devi rivolgerti a un vigile», disse brusca Mary Poppins mentre evitava con attenzione una pozzanghera. Si fermò davanti a una farmacia all'angolo, così che poté vedersi riflessa in tre gigantesche bottiglie esposte in vetrina. Poté ammirare una Mary Poppins verde, una Mary Poppins blu e una Mary Poppins rosa, tutte in una volta. E ognuna di esse portava una nuovissima borsetta di cuoio con i pomelli d'ottone. Mary Poppins si guardò nelle tre bottiglie ed ebbe un sorriso compiaciuto e soddisfatto. Passò qualche minuto a spostare la borsa dalla mano destra alla sinistra, provandola in ogni possibile posizione, per vedere la miglior figura che poteva fare. Quindi fu del parere che, dopo tutto, era meglio lasciarla sotto il braccio, e così fece. Jane e Michael stavano fermi dietro di lei, non osando dir nulla, ma scambiandosi delle occhiate e sospirando dentro di sé, e dall'ombrello la pioggia sgocciolava spiacevolmente sui loro colli. «Adesso non mi fate aspettare», disse Mary Poppins seccamente, voltando le spalle alla sua immagine verde, blu e rossa. Jane e Michael si scambiarono nuovamente un'occhiata. Jane fece segno a Michael di stare zitto, scosse la testa e gli fece una smorfia, ma lui non si trattenne. «Non eravamo noi, eri tu che ci facevi aspettare!» «Silenzio!» Michael non osò replicare. Lui e Jane si incamminarono uno da una parte e uno dall'altra di Mary Poppins. Di tanto in tanto dovevano fare una corsetta per tener dietro ai suoi lunghi passi veloci. E qualche volta dovevano aspettare, prima su una gamba e poi sull'altra, quando ella si rimirava in una vetrina per assicurarsi che la borsa facesse il bel effetto che lei desiderava. La pioggia cadeva a dirotto, saltando dalla cupola dell'ombrello sui cappelli di Jane e Michael. Jane portava sotto il braccio il vaso di Capodimonte avvolto con cura in due pezzi di carta. Lo stavano portando dal cugino di Mary Poppins, il signor Sotto, che per mestiere aggiustava le cose. «Ebbene», aveva detto la signora Banks, poco convinta, «spero che lo accomoderà in modo soddisfacente, poiché finché non sarà stato aggiustato io non avrò il coraggio di guardare in faccia la mia prozia Carolina». La prozia Carolina aveva donato il vaso alla signora Banks, quando questa aveva solo 3 anni e si sapeva bene che se fosse andato rotto la prozia Carolina avrebbe fatto una delle sue famose scenate. «I membri della mia famiglia, signora», aveva replicato Mary Poppins con uno sbuffo, «danno sempre soddisfazione». E aveva assunto un'aria così fiera che la signora Banks si era sentita veramente a disagio, tanto che aveva dovuto sedersi a suonare per una tazza di caffè. Era Jane, proprio in mezzo a una pozzanghera. «Bada, dove metti i piedi, ti prego!» disse brusca Mary Poppins, scuotendo l'ombrello e lasciandolo sgocciolare su Jane e Michael. «Questa pioggia può spezzarti il cuore!» «Se me lo spezzasse, il signor Sotto potrebbe aggiustarlo?» domandò Michael. Era curioso di sapere se il signor Sotto poteva aggiustare tutte le cose rotte o soltanto certe cose. «Dimmi, lo farebbe, Mary Poppins?» «Ancora una parola», rispose Mary Poppins, «e vai a casa difilato». «Facevo soltanto una domanda», replicò Michael col broncio. «Beh, allora non farla!» Mary Poppins, arricciando il naso con aria incollerita, svoltò l'angolo rapidamente e, aperto un vecchio cancello di ferro, bussò alla porta di una piccola costruzione cadente. Tap tap, tappiti tap. E il suono del battacchio echeggiò attraverso la casa. «Oh mio Dio!» mormorò Jane a Michael. «Che cosa terribile se non fosse in casa!» Ma in quel momento udirono dei passi pesanti trascinarsi verso di loro e con un rumoroso cigolio la porta si aprì. Una donna tonda e arrossata, simile a 2 mele poste l'una sopra l'altra piuttosto che a un essere umano, stava sulla soglia. I suoi capelli lisci erano arrotolati a forma di palla in cima alla testa e la bocca sottile aveva un'espressione dura e irritabile. «Ebbene?» ella esclamò spalancando gli occhi. «Se non siete voi, mi faccio turca!» Sembrò che non le facesse molto piacere vedere Mary Poppins, né che a Mary Poppins facesse molto piacere vedere lei. «Il signor Sotto è in casa?» ella domandò senza fare alcun caso all'osservazione della donna tonda. rispose la donna tonda con una voce poco gentile, non saprei dirlo con certezza. Può essere e può non essere, tutto dipende dal modo in cui voi lo guardate. Mary Poppins varcò la soglia e scrutò intorno. Questo è il suo cappello, vero? Domandò, puntando il dito su un vecchio cappello di feltro che pendeva da un gancio nell'ingresso. Eh già, sì, naturalmente, per così dire. La donna tonda ammise il fatto di malavoglia. Allora è in casa, incalzò Mary Poppins. Nessun membro della mia famiglia esce mai senza cappello. Sono persone troppo rispettabili. Tutto quello che io posso dirvi è ciò che egli mi ha detto questa mattina, disse la donna. Signorina Tartina, egli ha detto, oggi pomeriggio io posso essere in casa e posso non esserci. È assolutamente impossibile dirlo. Ecco quanto egli ha detto. Ma fareste meglio a salire e vedere da voi stessi. Io non sono un alpinista. La donna tonda gettò un'occhiata alla propria rotonda corporatura e scosse la testa. Jane e Michael si resero conto facilmente che una persona di quella mole non poteva trovare piacere nel salire troppo spesso le strette e scomode scale del signor Sotto. Mary Poppins fece uno sbuffo. Seguitemi, per favore, proferì bruscamente, e tutti la seguirono di corsa su per le scale scricchiolanti. La signorina Tartina rimase nell'ingresso a osservarli con un sorriso di superiorità. In cima al pianerottolo Mary Poppins bussò alla porta con il manico dell'ombrello. Non ci fu risposta. Bussò nuovamente, più forte questa volta. Ancora nulla. Cugino Arturo, chiamò attraverso il buco della serratura. Cugino Arturo, ci sei? No, sono fuori, rispose dall'interno una voce lontana. Come fa a essere fuori? Abbiamo sentito la sua voce? Mormorò Michael a Jane. Cugino Arturo. Mary Poppins scosse la maniglia della porta. So che ci sei. No, no, sono fuori, ripeté la voce lontana. Sono fuori, ti dico. Oggi è il secondo lunedì. Oh, santi numi, l'avevo dimenticato, esclamò Mary Poppins e con un gesto rabbioso girò la maniglia e spalancò la porta. A prima vista, tutto ciò che Jane e Michael poterono scorgere fu una vasta stanza in cui non c'era nulla, eccettuato un banco da falegname. Ammucchiata sopra c'era una curiosa collezione di articoli, cani di porcellana senza naso, cavalli di legno che avevano perduto la coda, piatti ridotti in pezzettini, bambole rotte, coltelli senza manico, sgabelli con due sole gambe, tutto quanto al mondo si sarebbe detto dovesse essere aggiustato. Lungo le pareti della camera si allineavano delle mensole, dal pavimento fino al soffitto, e anch'esse erano piene di porcellane incrinate, vetri rotti e giocattoli fracassati. Ma non c'era traccia di anima viva. Oh, disse Jane contrariata, è fuori davvero? Ma Mary Poppins si era slanciata verso la finestra. Torna subito dentro, Arturo. Fuori sotto la pioggia, in questo modo, proprio tu, che il penultimo inverno hai avuto la bronchite. E con immensa sorpresa Jane e Michael la videro afferrare una lunga gamba che pendeva dal davanzale della finestra e tirare dentro un uomo alto, magro, dall'aspetto triste, con lunghi baffi spioventi. Dovresti vergognarti di te stesso, disse severamente Mary Poppins, tenendo fermo il signor Sotto con una mano, mentre con l'altra chiudeva la finestra. Ti abbiamo portato un lavoro importante da fare ed ecco come ti comporti. Beh, non posso farci nulla, si scusò il signor Sotto, asciugandosi gli occhi tristi con un largo fazzoletto. Te lo avevo detto che era il secondo lunedì. Cosa significa ciò? Domandò Michael, spalancando gli occhi con interesse sul signor Sotto. Ah, disse il signor Sotto, volgendosi verso di lui e stringendogli la mano. È gentile da parte tua chiedere informazioni, molto gentile, lo apprezzo assai, davvero. Si interruppe per asciugarsi gli occhi. Vedi, continuò, ecco che succede. Ogni secondo lunedì del mese tutte le cose mi vanno di traverso. Che sorta di cose? Domandò Jane, dispiaciuta per il signor Sotto, ma anche piena di curiosità. Ebbene, guarda oggi, rispose il signor Sotto. Oggi per l'appunto è il secondo lunedì del mese e proprio perché desidero essere in casa, avendo tanto lavoro da fare, mi trovo automaticamente fuori. E se desiderassi essere fuori, senza dubbio sarei in casa. Capisco, disse Jane, benché in realtà le riuscisse molto difficile comprendere. È per questo che sì, assentì con il capo il signor Sotto. Vi ho sentito venire su per le scale e desideravo tanto essere in casa, ma naturalmente appena l'ho desiderato mi sono trovato fuori. E fuori sarei rimasto se Mary Poppins non mi trattenesse dentro. Sospirò profondamente. Certo, non è sempre così. Soltanto fra le 3 e le 6, ma comunque la cosa può riuscire davvero molto imbarazzante. Ne sono sicura, lo commiserò Jane. E non si tratta soltanto di trovarmi dentro o fuori, proseguì tristemente il signor Sotto. Ci sono anche altre cose. Se cerco di salire, mi accade invece di scendere. Voglio voltare a destra ed ecco che volto a sinistra. E non mi dirigo mai a ponente senza trovarmi immediatamente a levante. Il signor Sotto si soffiò il naso. E quel che è peggio, continuò mentre i suoi occhi si riempivano di lacrime, tutto il mio essere subisce un'alterazione. A guardarmi ora stentereste a credere che io sia realmente un uomo felice e soddisfatto, vero? In verità il signor Sotto appariva così malinconico e afflitto che sembrava assolutamente impossibile che egli fosse mai stato allegro e contento. Ma perché? Perché? Domandò Michael guardandolo fisso. Il signor Sotto scosse tristemente la testa. Ah, avrei dovuto essere una bambina. Jane e Michael gli spalancarono gli occhi in faccia e si guardarono l'un l'altro. Cosa voleva dire? Vedete, spiegò il signor Sotto, mia madre desiderava una bambina e saltò fuori quando io arrivai che fossi un maschio, così andò tutto di traverso fin dal principio, dal giorno in cui nacqui, per così dire. Ed era precisamente il secondo lunedì del mese. Il signor Sotto ricominciò a piangere, singhiozzando piano nel fazzoletto. Jane gli dette un colpetto affabile sulla mano. Egli ne sembrò contento, pur senza sorridere. E naturalmente, egli proseguì, ciò è terribile per il mio lavoro, guardate lì. Con la mano additò una delle mensole più larghe su cui si stendeva una fila di cuori di varie tinte e misure, ciascuno incrinato o sbeccato o rotto completamente. Quelli, spiegò il signor Sotto, sono gli articoli reclamati con maggior premura. Non potete immaginare come si infuria la gente se non le rimando indietro i cuori in tutta fretta. Fanno più chiasso per questi che per qualsiasi altra cosa, e io, d'altro canto, non oso toccarli fin dopo le 6, li rovinerei come quelle cose lì. E indicò un'altra mensola. Jane e Michael guardarono e videro che c'era ammucchiata una quantità di oggetti male aggiustati. Una pastorella di porcellana era stata separata dal suo pastore e le braccia erano incollate al naso di un leone di ottone. Un marinaretto che qualcuno aveva strappato dalla sua barca era solidamente incollato a un piatto di terraglia e nella barca, con la proboscide avvoltolata intorno all'albero maestro e lì fissata dal mastice, c'era un elefante di panno grigio. Sotto piatti rotti erano appiccicati insieme con i disegni scambiati e la gamba di un cavallo di legno era fissata a una coppa d'argento. «Vedete?» disse disperato il signor Sotto con un cenno della mano. Jane e Michael assentirono. Erano proprio impressionati del triste destino del signor Sotto. Oh, su, non ti preoccupare adesso, interruppe Mary Poppins spazientita. Ciò che importa è il vaso, lo abbiamo portato ad accomodare. Prese il vaso dalle braccia di Jane e, sempre tenendo con una mano il signor Sotto, sciolse lo spago con l'altra. Fece il signor Sotto, capo di monte, una brutta incrinatura. Sembrerebbe che qualcuno gli abbia tirato contro qualche cosa. Jane arrossì a quelle parole. Tuttavia, egli riprese, se fosse un qualsiasi altro giorno potrei accomodarlo, ma oggi esitò. Sciocchezze, è semplicissimo, devi soltanto mettere un po' di mastice qui e qui e qui. Mary Poppins indicò l'incrinatura, lasciando andare la mano del signor Sotto. Immediatamente gli cominciò a piroettare in aria, girando e rigirando come una girandola. Oh! gridò il signor Sotto. Perché mi hai lasciato andare, povero me? Eccomi da capo. Presto, chiudete la porta, ordinò Mary Poppins. E Jane e Michael attraversarono di corsa la stanza e chiusero la porta prima che il signor Sotto la raggiungesse. Egli vi batté contro, rimbalzò indietro e si rigirò in aria con grazia. All'improvviso si fermò, ma in una curiosissima posizione. Invece di stare su dritto, si era capovolto e stava sulla testa. «Mio Dio, mio Dio!» esclamò il signor Sotto sferrando un violento calcio. «Mio Dio, mio Dio!» Ma i piedi non vollero abbassarsi sul pavimento, continuarono ad agitarsi mollemente in aria. «Ebbene!» osservò il signor Sotto con la sua voce malinconica. «In fondo devo rallegrarmi che non vada peggio. Meglio questo che lo stare fuori sotto la pioggia, sospeso in aria e senza cappotto, vedete?» E guardò Jane e Michael. «Desidererei tanto stare su dritto, invece ecco il mio destino. Sono capovolto. Bene, bene, non importa. Dovrei esserci abituato a quest'ora. Sono ormai 45 anni. Datemi il vaso.» Michael corse a prendere il vaso da Mary Poppins e lo mise sul pavimento accanto alla testa del signor Sotto. Intanto sentì che gli accadeva una cosa curiosa. Gli sembrò che il pavimento respingesse i suoi piedi e li dirigesse in aria. «Oh!» esclamò. «Provo una buffissima sensazione. Mi succede qualcosa di veramente straordinario.» Ecco che infatti ora anche lui girava in aria come una girandola e volava su e giù per la stanza finché atterrò con la testa in giù sul pavimento accanto al signor Sotto. «Corbezzoli!» disse lui, molto sorpreso, guardando Michael con la coda dell'occhio. «Non ho mai saputo che fosse contagioso. Tu pure? Bene, che caso strano! Ehi, ehi, dico, fermo là! Farai cadere gli oggetti dalla mensola se non fai attenzione e io sarò responsabile dei danni. Cosa stai facendo tu?» Ecco che ora si rivolgeva a Jane, i cui piedi improvvisamente si erano sollevati dal tappeto e stavano rigirandosi al di sopra della sua testa con ritmo vertiginoso. Ella continuò a piroettare e a rigirarsi, testa in basso e piedi in aria, finché scese dall'altro lato, accanto al signor Sotto, e si trovò capovolta. «Sai», disse il signor Sotto, fissandola gravemente, «tutto ciò è molto bizzarro. Non ho mai saputo che sia accaduto a qualcun altro prima d'ora. Sulla mia parola, non l'ho mai saputo e voglio sperare che non ti secchi.» Jane rise, volgendo il capo verso di lui e agitando in aria le gambe. «Oh no, non mi secca affatto, anzi, ho sempre desiderato stare ritta sulla testa e prima non ci ero mai riuscita. È una posizione comodissima.» «Ma», disse il signor Sotto in tono lugubre, «sono contento che a qualcuno piaccia, non posso dire di condividere la medesima sensazione.» «Oh, io sì», osservò Michael, «mi piacerebbe stare così tutta la vita. Ogni cosa sembra diversa. È più bella.» E in verità ogni cosa era diversa. Dalla loro strana posizione sul pavimento, Jane e Michael potevano vedere gli oggetti sul banco da falegname tutti capovolti: cani di porcellana, bambole rotte, sgabelli di legno stavano ritti con le gambe per aria. «Guarda!» mormorò Jane a Michael. Egli girò il capo quando poté ed ecco che, sbucando dall'impiantito, venne fuori un topino. Con una capriola saltò in mezzo alla stanza e rimase in bilico sul naso. Lo osservarono per un momento, molto sorpresi. Poi Michael disse all'improvviso: «Jane, guarda fuori dalla finestra!» Ella girò la testa con circospezione perché era piuttosto difficile e vide con sua meraviglia che ogni cosa, anche fuori della stanza, era diversa. Nella strada le case si vedevano capovolte e i comignoli poggiavano sul selciato, mentre dalle porte d'ingresso uscivano lievi spirali di fumo. Più lontano una chiesa si era anch'essa capovolta e si dondolava piuttosto pesantemente sulla punta del campanile. La pioggia, che avevano sempre veduto cadere dal cielo, scaturiva ora dalla terra attraverso un violento acquazzone. «Oh!» disse Jane, «com'è bello e strano tutto questo! È come se fossimo in un altro mondo! Sono così contenta di essere venuta oggi!» «Bene», rispose il signor Sotto cupamente, «sei molto gentile, devo ammetterlo. Sai mostrarti indulgente. Su, via, ora che c'è da fare?» Stese la mano per prenderlo, ma in quel momento il vaso fece un lieve balzo e si capovolse. E lo fece in modo così rapido e buffo che Jane e Michael non poterono trattenersi dal ridere. «Non è una cosa da ridere», osservò il signor Sotto desolato. «Ve lo assicuro. Sarò costretto a mettere il mastice di traverso e il lavoro riuscirà male e io non ci posso fare niente.» e tirati fuori dalla tasca i suoi strumenti, aggiustò il vaso piangendo piano mentre lavorava. Disse Mary Poppins, chinandosi a prendere il vaso. Bene, è sistemato e adesso ce ne andremo. A tali parole il signor Sotto cominciò a singhiozzare pietosamente. Sì, lasciatemi, disse amaramente. Andatevene e non aiutatemi a distrarmi dalla mia disgrazia. Non porgetemi una mano, amica, non lo merito. Avevo sperato che mi avreste fatto l'onore di accettare un piccolo rinfresco. C'è una torta in una scatola di latta, sulla mensola più alta, ma ecco, non posso certo pretendere che vi fermiate. Voi avete le vostre vite da vivere e non avrei dovuto neppure chiedervi di rimanere a illuminare la mia. Questo non è il mio giorno fortunato. Cercò goffamente il fazzoletto. Beh, cominciò Mary Poppins, smettendo di abbottonarsi i guanti. Oh, restiamo, Mary Poppins, restiamo! Gridarono a una voce Jane e Michael, agitando disperatamente le gambe in aria. Se sali su una sedia, arriverai a prendere la torta, disse Jane incoraggiante a Mary Poppins. Il signor Sotto rise per la prima volta. Era un suono piuttosto triste, ma tuttavia era una risata. Oh, non ha bisogno di seggiola, egli disse, continuando a ridere malinconicamente. Lei ottiene tutto quello che desidera e nel modo in cui lo desidera. E in quell'istante, dinanzi agli occhi attoniti dei bambini, Mary Poppins fece una cosa curiosa. Si alzò, rigida, rigida sui piedi e si dondolò per un attimo. Quindi, molto lentamente e dignitosamente, girò 7 volte in aria come una girandola. Girò e girò con gli abiti che le rimanevano bene aderenti ai fianchi, il cappello correttamente assestato in testa, finché giunse all'altezza della mensola, prese la torta e roteò di nuovo verso il basso, atterrando con garbo sul capo di fronte al signor Sotto e ai bambini. Evviva! Evviva! Evviva! Gridò Michael esultante. Ma dal pavimento Mary Poppins gli lanciò un tale sguardo che gli fece desiderare di non avere mai aperto bocca. Grazie, Mary, disse malinconicamente il signor Sotto, per nulla sorpreso. Ecco, replicò brusca Mary Poppins, questa è l'ultima cosa che faccio per te oggi. Posò la scatola con la torta per terra davanti al signor Sotto. Immediatamente, con un piccolo giro, la scatola si capovolse e ogni volta che il signor Sotto la metteva dritta, tornava a capovolgersi. Ah! Proruppe egli disperato. Avrei dovuto saperlo. Nulla va per il suo verso oggi, neppure la scatola della torta. Dovremmo romperne il fondo. E si trascinò sulla testa fino alla porta e chiamò attraverso la fessura tra la porta e il pavimento. Signorina Tartina, signorina Tartina, mi dispiace tanto disturbarvi, ma potreste, vorreste, vi dispiacerebbe portarmi una priscatole? Da giù, lontana, si udì la voce della signorina Tartina protestare energicamente. Che stupidaggine! Disse forte una voce chioccia nella stanza. Che stupidaggine, che sciocchezza! Non disturbate quella donna! Lascia che ci pensi, Loreto! Carino, Loreto! Buono, Loreto! Volgendo il capo, Jane e Michael furono sorpresi nel vedere che la voce veniva dall'ombrello col manico di pappagallo di Mary Poppins, che in quel momento piroettava verso la torta. Ecco, gracchiò boriosamente la testa del pappagallo. Loreto l'ha fatto. Bravo, Loreto. E un giocondo sorriso, compiaciuto, gli illuminò il becco, mentre con la testa all'ingiù si posava sul pavimento accanto a Mary Poppins. Ciò è molto gentile. Esclamò il signor Sotto con la sua voce lugubre, mentre la crosta bruna della torta divenne visibile. Trasse un coltello dalla tasca e tagliò una fetta. Trasalì violentemente e osservò il dolce più da vicino. Quindi guardò Mary Poppins con aria di rimprovero. Questa è opera tua, Mary, non negarlo. Questo dolce, l'ultima volta che è stata aperta la scatola, era il dolce con l'uvetta e ora. La torta margherita è molto più digeribile, replicò Mary Poppins sostenuta. Mangiate lentamente, per favore, non siete selvaggi affamati. Ella disse, passando una fetta per ciascuno a Jane e Michael. Benissimo, brontolò con amarezza il signor Sotto e divorò la sua fetta in due bocconi. Ma a me piace che ci sia l'uvetta. Francamente, questo non è il mio giorno fortunato. Si arrestò all'improvviso perché qualcuno bussava alla porta. Avanti, disse il signor Sotto. La signorina Tartina, più tonda che mai, ansante per aver salito le scale, irruppe nella stanza. Ecco la prescatole, signor Sotto. Cominciò in tono burbero, si fermò e spalancò gli occhi. Mio Dio! Esclamò a bocca aperta, lasciando scivolare dalle mani la priscatole. Di tutte le cose che ho visto, questa non me la sarei mai immaginata. Fece un passo avanti, fissando con espressione di profondo disgusto le quattro paia di piedi che si agitavano in aria. Capovolti tutti come mosche al soffitto! E credevate di essere creature umane degne di rispetto? Questo non è posto per una signora della mia posizione. Lascerò questa casa all'istante, signor Sotto. Per favore, prendetene nota. Piena di collera, si incamminò pesantemente verso la porta. Ma ecco che, mentre se ne andava, le sue ampie vesti ondeggianti le si gonfiarono intorno alle gambe tonde e la sollevarono dal pavimento. Un'espressione di angosciata meraviglia le apparve sul volto. Aprì le braccia disperatamente. Signor Sotto, signor Sotto, signore, prendetemi, tiratemi giù, aiuto, aiuto! Gridò la signorina Tartina, mentre anche lei cominciava a roteare rapidamente come una girandola. Oh, il mondo gira! Che devo fare? Aiuto, aiuto! Urlava continuando a girare. Ma mentre girava, un curioso cambiamento sopravvenne in lei. La sua faccia tonda perdette l'abituale espressione irritata e cominciò a illuminarsi di sorrisi. E Jane e Michael videro la sua liscia capigliatura trasformarsi in una massa di riccioli capricciosi, mentre girava come un turmine per la stanza. Quando riprese a parlare, la sua voce arcigna era diventata dolce come il miele. «Cosa mi sta capitando?» gridò la giovane voce della signorina Tartina. Mi sento come una palla che rimbalza. O forse un pallone? O una torta di ciliegie? E scoppiò in frenetici scoppi di risa. Oh, povera me! Come sono contenta! Trillò piroettando nell'aria. Non mi sono mai divertita tanto, tanto nella mia vita, ma adesso sento che non mi fermerò più. Che deliziosa sensazione! Scriverò a casa a mia sorella per informarla. Scriverò ai miei cugini, agli zii, alle zie. Dirò loro che la sola maniera giusta di vivere è sottosopra, sottosopra, sottosopra. E cantando giocondamente, la signorina Tartina continuò a girare e a girare. Jane e Michael la guardavano divertiti e il signor Sotto la osservava con meraviglia, poiché non aveva mai conosciuto la signorina Tartina sotto altra luce che quella di una persona irritabile e scorbutica. È molto bizzarro, disse a se stesso scuotendo la testa. Si udì un colpo alla porta. C'è qualcuno che si chiama Sotto? Domandò una voce e il postino apparve sulla soglia della porta con una lettera. Ma si fermò sgranando gli occhi alla vista che gli si presentò. Perbaccolino! Osservò tirandosi indietro il berretto. Devo avere sbagliato indirizzo. Sto cercando un signore tranquillo e per bene che si chiama Sotto. Ho una lettera da consegnargli. Per di più ho promesso a mia moglie di tornare a casa presto e ho mancato alla mia parola e pensavo. Ah, disse il signor Sotto dal pavimento, una promessa rotta è una delle cose che io non posso aggiustare. Non è il mio genere di attività, mi dispiace. Il postino lo guardò con stupore. Sogno o son desto? Mormorò. Ho l'impressione di essere capitato in una compagnia di matti che girano, roteano e turbinano. Datemi la lettera, caro postino, date la lettera a Tartina sopra e capovolgetevi con me. Il signor Sotto, vedete, è occupato. La signorina Tartina, roteando intorno al postino, gli prese la mano nella sua. A quel contatto i piedi di lui si sollevarono dal pavimento e si capovolsero in aria. Quindi se ne andarono, il postino e la signorina Tartina, mano nella mano, come un paio di palloni rimbalzanti. Com'è piacevole! Gridò giocondamente la signorina Tartina. Oh, postino caro, vediamo la vita per la prima volta. E quale deliziosa visione ne abbiamo! Giriamo, giriamo, non è davvero meraviglioso? Sì! Gridarono Jane e Michael unendosi alla turbinosa danza del postino e della signorina Tartina. Ed ecco che anche il signor Sotto si unì a loro, girando e agitandosi goffamente in aria. Mary Poppins e il suo ombrello seguirono anch'essi impalati e composti con la massima dignità. Ora stavano tutti girando e piroettando con il mondo che andava su e giù e le grida gioconde della signorina Tartina echeggianti per la stanza. Tutta la città capovolta sta! E sulle mensole i cuori incrinati e rotti giravano come trottole, la pastorella e il suo leone danzavano insieme graziosamente, il valzer e l'elefante di panno grigio nella barca si appoggiava alla proboscide e sgambettava in aria. Il marinaretto ballava una mazurca, non sui piedi ma sulla testa, battendo con garbo il tempo sul piatto di terraglia. Come sono felice! Gridò Jane mentre roteava per la stanza. Come sono felice io! Gridò Michael facendo capriole in aria. Il signor Sotto si asciugò gli occhi con il fazzoletto, sballonzolando anch'egli sempre capovolto. Mary Poppins e il suo ombrello non dicevano nulla, contenti di roteare nello spazio con la testa all'ingiù. Come siamo tutti felici! Gridò la signorina Tartina. Ma il postino aveva adesso ritrovato la parola e non la pensava come lei. Aiuto! Gridò continuando a piroettare. Aiuto, aiuto! Dove sono? Chi sono? Cosa sono? Non mi ci raccapezzo più. Sono perduto. Oh, aiuto! Ma nessuno lo aiutava e solidamente tenuto dalla stretta della signorina Tartina era trascinato nel turbine. Ho sempre vissuto una vita tranquilla, sempre! Gemette. Mi sono comportato come un cittadino rispettabile per giunta. Oh, cosa dirà mia moglie? E come tornerò a casa? Aiuto, al fuoco, al ladro! E con un grande sforzo strappò violentemente la mano da quella della signorina Tartina, lasciò cadere la lettera nella scatola del dolce e, sempre piroettando, uscì dalla porta e scese le scale con la testa all'ingiù, gridando forte: Farò intervenire la legge contro di loro, avvertirò la polizia, parlerò al direttore generale delle poste. E la sua voce morì lontano mentre a salti continuava a scendere le scale. Ping! Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Fuori nella piazza l'orologio suonò le 6. In quello stesso istante i piedi di Jane e Michael caddero giù con un tonfo ed essi si rialzarono con un senso di vertigine. Mary Poppins si raddrizzò elegantemente e composta come il manichino di un negozio, e lo stesso fece l'ombrello. Il signor Sotto, con un gran scuotimento di gambe, si rimise in piedi a stento. I cuori sulla mensola stettero quieti e rigidi e immobili rimasero la pastorella, il leone, l'elefante di panno grigio e il marinaretto. A guardarli non si sarebbe mai immaginato che un momento prima danzassero con la testa all'ingiù. Solo la signorina Tartina continuò a turbinare rapidamente, torno torno, per la stanza, testa in basso e piedi in aria, ridendo allegramente e cantando la sua canzone. Tutta la città capovolta sta, capovolta sta, capovolta sta. Signorina Tartina, signorina Tartina, gridò il signor Sotto correndo verso di lei con una strana luce negli occhi. Mentre ella gli piroettava accanto, le afferrò il braccio e lo tenne fermo finché non si fu rimessa in piedi. Come avete detto che vi chiamate? Domandò il signor Sotto ansante d'emozione. La signorina Tartina arrossì. Lo guardò timidamente. Ma Tartina, signore, mi chiamo Tartina, Tartina sopra. Il signor Sotto la prese per mano. Allora, signorina Tartina, volete sposarmi ed essere soprasotto? O sottosopra? Tale combinazione sistemerebbe la mia vita. Si direbbe che siete diventata così felice da dimenticare persino i miei secondi lunedì. Dimenticarli, signor Sotto? Ma essi diventeranno il mio maggior diletto, rispose la signorina Tartina sopra. Oggi ho veduto il mondo capovolto e ho acquistato un nuovo punto di vista. Vi posso assicurare che per tutto il mese non farò che aspettare il secondo lunedì. Rise timidamente e porse l'altra mano al signor Sotto. E il signor Sotto, Jane e Michael lo constatarono con piacere, rise anche lui. Sono passate le 6. Suppongo che egli sia tornato a essere se stesso, mormorò Michael a Jane. Jane non rispose. Stava guardando il topo che non stava più in bilico sul naso, ma correva verso il suo buco con una grossa briciola di torta in bocca. Mary Poppins raccolse il vaso di Capodimonte e cominciò ad avvolgerlo nella carta. Raccogliete i vostri fazzoletti, per piacere, e raddrizzatevi il cappello, intimò bruscamente. E ora? Prese l'ombrello e si mise la borsa sotto il braccio. Oh, non ce ne andiamo adesso, vero, Mary Poppins? Implorò Michael. Se tu hai l'abitudine di stare fuori tutta la notte, io non ce l'ho, ella replicò, spingendolo verso la porta. Dovete proprio andarvene? Domandò il signor Sotto, ma si capì che lo chiedeva per pura cortesia. Aveva occhi soltanto per la signorina Tartina. E la signorina stessa avanzò verso di loro, scuotendo i riccioli. Tornate! Ella disse, porgendo la mano a ciascuno di loro. Davvero, tornate! Il signor Sotto e io, abbassò timidamente gli occhi e arrossì, saremo in casa per il tè ogni secondo lunedì, vero, Arturo? Beh, rispose il signor Sotto, saremo in casa se non saremo fuori, di ciò sono sicuro. Rise, e Jane e Michael risero con lui. Ed egli e la signorina Tartina rimasero in cima alle scale facendo segni d'addio a Mary Poppins e ai bambini, mentre la signorina Tartina arrossiva di felicità e il signor Sotto le teneva la mano, tronfio e sussiegoso. Non credevo fosse così facile, disse Michael a Jane, mentre guazzavano nelle pozzanghere sotto l'ombrello di Mary Poppins. Che cosa? Domandò Jane. Stare capovolti? Lo rifarò quando sarò a casa. Oh, mi piacerebbe che anche noi avessimo i secondi lunedì, commentò Jane pensosamente. Su, entrate per favore, ordinò Mary Poppins chiudendo l'ombrello e spingendo i bambini sul predellino dell'autobus. Si sedettero insieme sul sedile dietro Mary Poppins, parlando sottovoce di tutto quello che era accaduto nel pomeriggio. Mary Poppins si voltò e lanciò uno sguardo di fuoco. Non è educazione parlare sottovoce, disse piena di collera, e tenetevi dritti, non siete sacchi di patate. I bambini rimasero in silenzio per pochi minuti. Mary Poppins, mezza voltata sul suo sedile, li guardava con occhi inquieti. Che buffa famiglia la tua, osservò Michael cercando di attaccare discorso. La testa di lei ebbe uno scatto. Buffa? Cosa intendi, scusa, per buffa? Ebbene, è bizzarra. Il signor Sotto che fa la girandola e sta con la testa all'ingiù. Mary Poppins lo fissò come se non riuscisse a credere alle sue orecchie. Mi sbaglio oppure hai detto? Ella cominciò spiccando le parole come se le mordesse. Che mio cugino fa la girandola? E che sta con. Ma lo ha fatto! Protestò Michael nervosamente. Lo abbiamo visto! Con la testa all'ingiù? Un mio parente con la testa all'ingiù e che fa la girandola come un fuoco d'artificio? Sembrava che Mary Poppins stentasse a ripetere la terribile osservazione. Incenerì Michael con lo sguardo. Ebbene, questa? Ella continuò, e Michael si tirò indietro terrorizzato da quegli occhi dardeggianti. Questa è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Intanto sei impertinente verso di me e poi insulti i miei parenti? Basterebbe poco di più, perché io fossi costretta a licenziarmi. Quindi sei avvertito. E detto ciò, fece un balzo sul sedile e voltò le spalle ai bambini. Anche di schiena appariva più arrabbiata di quanto l'avessero mai vista. Michael si sporse in avanti. Ti chiedo scusa, disse. Non venne alcuna risposta. Mi dispiace, Mary Poppins. Mi dispiace molto. E così deve essere, ella rimbeccò guardando diritto dinanzi a lei. Michael si chinò verso Jane. Ma era vero quel che ho detto, no? Egli mormorò. Jane scosse la testa e si pose un dito sulle labbra. Stava osservando il cappello di Mary Poppins e, quando fu sicura che Mary Poppins non guardava, ne indicò la falda. Là, sparse sulla lucida paglia nera, si vedevano delle briciole. Briciole gialle di una torta margherita che si sarebbero potute trovare soltanto sul cappello di una persona che avesse fatto merenda a testa in giù. Michael guardò per un momento le briciole, quindi si volse con la testa, fece a Jane un segno d'intesa. Stavano seduti, sobbalzando su e giù alle scosse dell'autobus che li riportava a casa. La schiena di Mary Poppins, diritta e sostenuta, sembrava un silenzioso ammonimento. Non osavano parlarle, ma ogni volta che l'autobus girava l'angolo, vedevano le briciole turbinare sulla lucida falda del suo cappello.